Io credo che l'Italia debba fare una scelta molto semplice, no? Se vuole stare al tavolo con gli altri deve acquistare la credibilità per starci. Quello che abbiamo visto con lo spread adesso è una riflessione perlomeno su una parte della credibilità italiana che abbiamo riacquistato. Il discorso è molto molto complesso. Io credo che il Presidente Monti abbia dato, è la persona giusta anche per dare questo segnale di tranquillità e proprio di padronanza del mestiere. Quindi il lavoro che sta facendo il Vice Ministro, credo Grilli, a New York oggi, il lavoro che sta facendo lui qua oggi e quello che farà a New York sono cose importantissime. E quindi mantenerlo anche nel lungo periodo? Non abbiamo scelta, ma se no ritorniamo nei giorni delle caverne, no? Ormai il mondo si è spostato. Ecco, abbiamo qui anche Paolo Scaroni, amministratore delegato dell'ENI, al Peterson Institute for International Economics. Il discorso di Monti, che impressione le ha dato? Che messaggio porta agli americani? Ma soprattutto lei che conosce l'America, cosa sente dagli americani, da questa posizione italiana che porta Mario Monti? Ma vede, gli americani sono molto pragmatici e apprezzano le persone che fanno le cose. Allora, questo è un governo che in questi pochi mesi ha detto quel che faceva e ha fatto quello che aveva detto. E tutto questo dà una solidità al nostro paese che è fondamentale per ricostruire una credibilità finanziaria senza la quale parlare di ripresa è del tutto impossibile. Ecco, in passato abbiamo avuto situazioni in cui abbiamo fatto riforme, abbiamo rimesso a posto le cose e poi si è sempre ricaduti all'indietro. Siamo, secondo lei, a una svolta per il futuro del paese verso una serietà continuata o c'è il rischio che si ricada all'indietro? Ma guarda, io credo che se le riforme che il governo ha preannunciato, che quindi che toccheranno le liberalizzazioni, la riforma naturalmente del nostro deficit e tutto quello che va a favore della crescita, dicevo, se tutto questo verrà fatto, nessuno tornerà indietro, chiunque vinca le prossime elezioni.